Italia in controluce. Oggi è il 20 novembre, in studio Daniele Biacchessi, un ragioniere che gestisce la cassa personale di un ex presidente del Consiglio. Un sequestro lampo organizzato da sei criminali di mezza taglia. Una richiesta strana, 35 milioni per carte esclusive inedite sul cosiddetto Lodo Mondadori. Una notte di paura, quella passata dal ragionier Giuseppe Spinelli, in arte cassiere di Silvio Berlusconi, di sua moglie in una tranquilla casa a Brescia, alle porte di Milano. Questa è la storia di oggi. Con me in studio Maria Luisa Pezzali, al telefono in diretta Gian Giacomo Schiavi, vice direttore del Corriere della Sera. Buongiorno Schiavi. Buongiorno a tutti voi. Che cosa pensate di questo strano rapimento senza riscatto? Un avvertimento, una minaccia? 349-238-6666, i numeri dell'SMS. Lei che cosa pensa, Schiavi? Ma io penso a un ricatto, penso alle tante ombre e a un brutto copione, a una sequenza estrema di quelle che sono le frequentazioni incaute dell'ex presidente del Consiglio, le tante leggerezze alle quali abbiamo assistito in questi anni, dai fatti di cronaca, da questi incontri avvicinati e queste relazioni pericolose con faccendieri, con escort, con personaggi comunque che arrivano da un sottobosco abbastanza inquietante. Ecco, tutto questo probabilmente ha creato una situazione che ha esposto una figura come quella di Silvio Berlusconi a estorsioni, a ricatti o alla facilità di arrivare a ricattarlo con minacce e soprattutto con la rivelazione di qualche incauto segreto. Cosa pensate di questo strano rapimento, un avvertimento secondo voi, una minaccia, un ricatto, come dice Gian Giacomo Schiavi, vice direttore del Corriere della Sera, alla 349-238-6666? Vediamo di ricostruire, Maria Luisa, questa strana vicenda. Buongiorno Daniele, buongiorno agli ascoltatori. Iniziamo col dire che sono molti i punti oscuri, una dinamica non del tutto chiara, ha voluto sottolineare anche ieri il PM Ilda Boccassini, che ha condotto le indagini. Ecco la ricostruzione: sono le 21.45 del 15 ottobre scorso, quando il ragionier Spinelli, uno degli uomini, come hai detto tu Daniele, più fidati di Berlusconi, l'uomo che pagava, paga tuttora in alcuni casi le cosiddette olgettine, viene bloccato sul pianerottolo di casa da uomini armati con il volto coperto, che lo spintonano all'interno dell'appartamento e tengono poi lui e la moglie sotto la minaccia delle armi per ben 11 ore. La banda, guidata da Francesco Leone, un pregiudicato barese con le scarpe rosso-nere, uno degli elementi che porterà poi alla sua individuazione, costringe poi Spinelli a telefonare all'ex premier per proporgli documenti, audio e video sul lodo Mondadori, documenti contro Carlo De Benedetti e Gianfranco Fini in cambio di 35 milioni di euro. Da questo momento in poi è tutto poco chiaro, anche perché il sequestro viene denunciato dal legale del premier Niccolò Ghedini solo nel pomeriggio, ore 16:20 del 17 ottobre, quindi 31 ore dopo. Quando viene rilasciato alle 9 di mattina del 16 ottobre, Spinelli infatti non dà l'allarme alle forze dell'ordine, ma va ad Arcore da solo e viene poi portato dalla scorta di Berlusconi insieme alla moglie in una località segreta. Quel giorno l'ex premier annullerà tutti gli impegni. L'ipotesi dei magistrati è che possa essere stato pagato un riscatto, forse 8 milioni di euro, dopo il rilascio degli ostaggi. La cifra ipotizzata viene citata nell'ordinanza d'arresto a carico dei sei componenti della banda, finiti in carcere, lo ricordiamo, oltre a Leone, tre albanesi e due italiani. Di questi soldi però al momento non c'è traccia. Nelle cassette di sicurezza aperte dalla banda sono state trovate solo banconote false. Le indagini, notizia di poco fa, puntano su un viaggio in Svizzera, una trasferta legata forse al trasferimento del denaro. Nelle intercettazioni alcuni dei componenti della banda fanno riferimento a svariati milioni, uno di loro aveva poi recentemente ordinato una Ferrari. Nessuna somma di denaro è stata pagata, né vi è stata alcuna trattativa, ha detto in una nota diffusa proprio poco fa lo stesso Spinelli, che attribuisce il ritardo della denuncia al suo ritardo nel riferire a Berlusconi come si erano effettivamente svolti i fatti, per paura di ritorsione nei confronti dei familiari. Anche il legale del premier Ghedini esclude qualsiasi pagamento, non avevano in mano nulla, dice a proposito del dossier offerto dei malviventi, tra cui un presunto filmato in cui si sarebbe visto Fini a colloquio con i giudici del lodo Mondadori, e materiale per ribaltare la sentenza di condanna appunto del lodo Mondadori. Una barzelletta, ha commentato Fini, ridicolo, ha detto anche Carlo De Benedetti. Gli investigatori hanno a questo proposito sequestrato PC, DVD, una serie di supporti informatici che vengono analizzati proprio in queste ore. Domani intanto inizieranno gli interrogatori di garanzia. Daniele. Un ascoltatore, la Boccassini, ha da addosso alla vittima e non ai delinquenti. Se era di sinistra a Peticelo con i tuoi sodali, vergogna, dice un ascoltatore. E l'altro invece, Manuela, penso ciò che ho sempre pensato, cioè che B sia un uomo pericoloso e che gli italiani siano troppo propensi a farsi truffare. Schiavi, io ho letto due dei tantissimi sms, c'è ancora un'Italia molto divisa, Berlusconi continua a dividere nonostante abbia i suoi problemi e anche i suoi problemi all'interno del suo partito, e anche un calo d'immagine piuttosto vistoso. Certo, ma penso che abbiano ragione entrambi gli ascoltatori. Da un lato l'indagine è agli inizi, è un'indagine difficile, non ci sono ancora elementi certi, e quindi in questa incertezza è ovvio che bisogna stare dalla parte delle vittime, e bisogna comunque tutelare le vittime e quindi guardare anche all'aspetto della banda criminale, o comunque di questi balordi, hai detto tu bene prima, che sembrano di mezza tacca. Però è l'altro aspetto che comunque crea sempre smarrimento e una certa, se vogliamo, un momento che fa discutere, soprattutto quello di un uomo così potente, di un uomo così importante, di un uomo che gestiva e gestisce un potere enorme, che si trova ad essere quasi prigioniero di una rete di rapporti, di interessi che ha intessuto nel tempo e che gli hanno lasciato aperte alcune pagine poco chiare, in cui qualcuno ne approfitta con pressioni o con ricatti criminosi. Sono già stati evidenziati dalle inchieste, c'è stato il caso Tarantini, c'è stato il caso La Vitola, si è parlato di Dell'Utri, sono tutti oggetti di indagine, e di indagine per tentativi di estorsione ai danni dell'ex premier. Pensano alcuni di arricchirsi, come fanno alcune di queste ragazze che abbiamo visto sfilare al processo Ruby e che attualmente percepiscono un assegno che pagava proprio il ragioniere Spinelli di 2.500 euro mensili, una sorta di vitalizio probabilmente per qualche silenzio. Grazie Gian Giacomo Schiavi, vice direttore del Corriere della Sera. Ringrazio anche Maria Luisa Pezzali. Noi sentirete invece un'intervista che Maria Luisa ha fatto poco fa ad un grande investigatore, cioè Achille Serra, che oggi non possiamo mandare, ma che sentirete comunque nelle prossime edizioni dei nostri giornali radio, perché erano gli anni, anche se Serra dice che non ci sono delle analogie, ma si tratta comunque di un sequestro anomalo, negli anni cioè in cui i sequestri li avevano in mano nomi come Renato Valanzasca, Angelo e Paminonda e Francis Turatello. Ci sentiamo domani 21 novembre, sempre alla stessa ora, Italia in controluce.